difficoltà che le donne meno belle subiscono quotidianamente, cioè una sorta di discriminazione anche nel minimo, nel quotidiano, in cose piccole e stupide, negli atteggiamenti, se vuoi, da parte del genere maschile, che tratta in un modo le donne belle e in un altro non molto bello le donne brutte. È un romanzo molto al femminile, questo è un romanzo di donne, potremmo definirlo così, però di donne che hanno secondo me dei tratti maschili, per esempio, non so, questa passione per la musica, questo modo proprio di elencare gruppi musicali, in particolar modo è la musica progressive, gruppi musicali, anno, disco, eccetera, è una cosa che ritrovo soprattutto nel mondo maschile. Invece qui lo applichi a queste due amiche, perché Carla va in Inghilterra per cercare i dischi per la sua amica, insomma avevano vissuto da giovani tante cose che li aveva legate. Ma hai assolutamente ragione, come dicono loro, come dice Carla a un certo punto, Leona Rant nel romanzo, quando loro vanno alla fiera dei dischi da collezione, sono per il 99,9% maschi e guardano loro due come guarderebbero due koala che fossero entrati per sbaglio in un privé di zebre. Sottolineare la differenza, ed è verissimo, questo succede anche nella vita reale, anche se insomma ho fior di esempi nel mondo che mi circonda che testimoniano che anche le signore possono essere appassionate di rock progressivo, ma questa passione per un genere musicale che appunto è strettamente maschile e soprattutto è demodé, ma demodé di tanto, no? Loro si innamorano del rock progressivo verso la fine degli anni 70, inizio anni 80, esattamente quando era passato di moda in modo clamoroso, cioè ascoltare quello era da sfigati al cubo. Loro si innamorano di questo genere musicale che è fatto, no, di grandi suite, cioè pezzi lunghi, complessi, cervellotici, con testi molto favolistici che ti portano in un altro mondo, proprio perché soprattutto Lottolina aveva bisogno di un altro mondo, cioè un mondo dove rifugiarsi nel momento in cui l'universo, soprattutto quello maschile, la metteva da parte. Tutta la vicenda, diciamo, di questo romanzo, una commedia italiana, si svolge in estate, un paesino di montagna, perché il capostipite, appunto, Alfredo Pampaloni, ha richiamato a sé la figlia, l'amica della figlia, il figlio scemo, diciamolo proprio così, perché così lo definisci, che vive in Inghilterra con moglie e figli, e qui succedono una serie di cose, perché c'è un problema di eredità, il figlio, insomma, sta facendo i conti in tasca al padre, ecco, diciamola così. Poi ci sono una serie anche di atti di teppismo nei confronti della casa. Poi quest'uomo non è così amato, appunto. O così sembra. O così sembra. Perché ci sono delle... Ecco, questo è il motore della trama del romanzo. Insomma, ci sono tre misteri che vengono risolti, che vengono posti nelle prime pagine e poi pian piano risolti nel corso del romanzo. Uno di questi è ciò di cui abbiamo parlato poco fa, e cioè il passato di Alfredo Pampaloni, che spariva durante tutte le estati negli anni 60 e anni 70 dicendo di andare appunto a Saint-Tropez o Forte dei Marmi, Ockstad, e chissà, lì cercava un'auto, una coproduzione per un suo film mai realizzato, chissà se era vero, faceva chissà cos'altro. Questo lo si scoprirà leggendo. Poi si scoprirà anche perché ha convocato questi figli insieme dopo tanti anni che non si ritrovava l'intera famiglia solaria, e subito li porta da un notaio per cedere loro la proprietà dei suoi immobili più importanti. Cosa sta succedendo? Perché improvvisamente decide di cedere ciò a cui è stato attaccatissimo? E mentre sono a Solaria succede anche che vengono, diciamo così, attaccati con piccoli atti di teppismo da non si sa chi, forse qualcuno del paese o forse qualcun altro, no? Sembra di entrare in un cane di paglia, la Sam Peckinpah, no? dove in Cornovaglia gli abitanti del paesino se la prendevano con Dustin Hoffman e la sua famiglia. Ma chissà cosa sta succedendo davvero. Questa è la terza cosa che si scoprirà solo leggendo. Sei un grandissimo venditore di libri, Pier Sandro Pallavicini. Si scoprirà solo leggendo, una di quelle frasi che veramente colpisce nel segno. Beh, devo dire che io leggendolo mi sono divertita parecchio. E tu scrivendolo? Moltissimo. Scrivendolo ridevo come un demente. Io di solito, guarda, tanto così per calarmi in una demitizzazione personale, scrivo in cucina, cioè non è che scriva in posti particolarmente affascinanti, e i miei dal soggiorno mi sentivano ridere, ogni tanto venivano, mia figlia soprattutto mi prendeva in giro, ah papà ride, beh vuol dire che stava funzionando quello che stavo scrivendo. E anche in fase di rilettura di nuovo ridevo le cose che avevo scritto, e questo per me è il miglior controllo di aver fatto quello che volevo davvero fare, cioè un romanzo con molte pagine di umorismo puro. E infatti le pagine di umorismo puro, vi assicuro, ci sono tutte. Grazie a Piersandro Pallavicini, ora in libreria con Una commedia italiana, un romanzo pubblicato da Feltrinelli, un romanzo, l'ho già detto, ironico, divertente, e posso dire che porta fortuna. Non vi posso spiegare perché, ma questo libro porta fortuna. Le promesse, una volta fatte, vanno mantenute. Devo dire che questa promessa che ci eravamo fatte con Barbara Sgarzi, ormai più di 3 mesi fa, devo dire, era la puntata del 12 aprile, insomma ci ha messo un po' per essere mantenuta, però ce l'abbiamo fatta. Barbara Sgarzi, io la definisco sempre una guru dei social media, perché insomma, giusto per citarne alcune, ha fatto la startup di Yahoo Italia, poi hai coordinato Yahoo Europa, se non erro, giusto? Sì, una parte. Hai fatto una serie di startup nel mondo dell'editoria, insomma sai tutto quel che c'è da sapere per quanto riguarda l'uso dei social media e altre cose nel mondo dell'editoria. Che scommessa avevamo fatto con Barbara Sgarzi? Beh, il 12 aprile il mio account di Twitter, Ale Teddina, aveva circa 1500 followers. Allora, visto che insomma avevo fra le mani la massima esperta, ho detto beh, come faccio a guadagnare più follower? E lei mi aveva dato alcuni consigli. Innanzitutto mi avevi detto: inizia a seguire altre persone, così sì, magari c'è una reciprocità. E questo l'ho fatto forse un po' poco, sono un po' pigra da questo punto di vista. E poi, più che scrivere tanto, tu dicevi scrivere bene, e io scrivo solo una volta alla settimana. Cioè, quando c'è il cacciatore di libri. Però allora, bene. Però bene, scrivo benissimo. Allora, Barbara Sgarzi, fammi, come dire, la tua tac, la tua radiografia dell'account Ale Teddina. Ha un senso tenerlo o no? Ha un senso sicuramente, perché tu sei una personalità, sei un personaggio, ti conoscono, sei una firma, per cui ha molto senso avere un account personale. La domanda potrebbe essere: ma perché non faccio un account col nome della trasmissione, per esempio? L'ho fatto, ecco. Però poi per pigrizia sul mio BlackBerry riesco a gestire il mio, perché uno faccio solo, tutto in metropolitana, sì. E allora capisco, i Twitter da metropolitana sono da metropolitana. Un grande classico, è giustissimo, ecco, questo è giustissimo, cioè prendere i tempi cosiddetti morti. Esattamente. Per gestire l'account social. Quando mi chiedono: ma quando devo gestirlo? Quando hai tempo? Quando hai quel minuto? No, quella, la metropolitana, la il metropolitana, viaggio, la treno, pubblicità durante un film, qualsiasi per esempio. Cosa. Quindi benissimo. Secondo me ha molto senso che tu tenga l'account personale, perché adesso stai facendo questa trasmissione, ma non sai la tua carriera futura come si evolverà. Allora io rimarrò Ale Teddina su Twitter. Esatto. E va bene. Quanti follower ho conquistato in questi, diciamo, più di 3 mesi? Ci eravamo dati appuntamento un mese dopo, ma sì, fra l'agenda di Barbara Sgarzi e la mia sembra di mettere insieme Obama e il Papa praticamente. E quindi siamo riusciti a rivederci solo ora dal vivo. Insomma, quanti ne ho conquistati? Allora, tu hai una media di nuovi followers tra i 90 e i 100 al mese. Mm. Nuovi followers, tre al giorno, facendo proprio la media dei polli. Ci sono 3 persone al giorno, esatto, che sono interessate a quello che scrivo. Facendo la media dei polli, ovviamente, certo, qualche giorno stai ferma, altri giorni ne hai 6 o 9. Potresti fare molto di più. Ecco, lo sapevo. È brava, ma non si impegna. È brava, lo sapevo, insomma, non sono mettiamola secchiona. No, è una buona media, e ovviamente fai il picco il sabato, il giorno della trasmissione, perché ovviamente la gente ti viene a cercare, tu magari citi l'account. Esattamente, cito sempre, insomma, quello che c'è nella puntata del cacciatore di libri, soprattutto quella della sera delle 22, insomma, quindi si crea un po' di movimento. Ora, al di là dell'account alle teddine, insomma, non vorrei usare troppo, come dire, il mezzo pubblico per interesse privato. Per quanto riguarda, riprendiamo un po' il discorso per quanto riguarda l'uso dei social media da parte delle case editrici. Io ho iniziato un po' a seguirne, in realtà ne seguo parecchie, e ho visto che ce ne sono certe molto molto attive. Per esempio Einaudi ha un account Twitter sempre molto molto presente, altre che si fanno vedere solo in occasione di alcuni eventi, non so, Rizzoli, Mondadori, per esempio, giusto per fare i nomi dei grandi. Chi è che viene premiato secondo te? Cioè l'editore che sta sempre su Twitter, o quello che effettivamente segnala solo gli eventi? Ma la risposta, come sempre, dipende. Mi verrebbe da dire, come prima, sullo scrivere viene premiato chi ci sta bene sui social, e quindi magari per una settimana può essere anche estremamente presente perché ha tante cose da dire, e magari più silente per alcuni altri giorni. E il caso di Einaudi che tu citi è emblematico, perché Einaudi più di ogni altro e prima di ogni altro ha saputo trovare una voce. Ecco, il problema è soprattutto quello: non andare su Twitter in ottica istituzionale e faccio quello che fanno gli altri, no? Esce un libro, twitto il libro, ho l'intervista con l'autore, twitto l'intervista con l'autore, ok, va bene, è una vetrina, usiamola come vetrina. Però il mio sogno sarebbe quello di account Twitter degli editori, che se io copro l'avatar e il nome account, cioè non vedo chi l'ha fatto, capisco immediatamente chi l'ha scritto. Perché dalla c'è personalità, un'identità. Sì, dalla persona, e questo Einaudi lo fa, e devo dire che forse è l'unico. Gli che diamo riconoscerei. Il premio. Sì, diamo, allora, il premio sì. Twitter sì, del cacciatore di libri viene dato a... Sicuramente, fra l'altro lui si è anche inventato una seconda identità come il bot, quindi facendo finta di essere un robot che twitta automaticamente, no? Quindi questo gioco divertente. Poi per il resto il consiglio è sempre quello di non usare il social media e la piattaforma di microblogging, in questo caso Twitter, come uno spazio pubblicitario comprato, perché non è così. Tornando invece all'uso privato del mezzo pubblico e all'uso che Alessandra Tedesco può fare di Barbara Sgarzi, io ho sempre avuto un sogno, cioè quello di fare un blog letterario che si poteva chiamare Giovedì Libri. Avevo pensato di chiamarlo così perché, conoscendo la mia pigrizia e soprattutto le tante cose che ho sempre da fare, ho detto almeno il giovedì potrò aggiornarlo. Avrebbe senso, secondo te, lanciare un blog che ha come impegno di aggiornarlo almeno una volta alla settimana? Però non è detto, insomma. Però, ecco, il però non è detto mi spaventa un po', nel senso che una volta a settimana sì, è un po' poco, come tu stessa sai, sì. Però va bene, perché dai comunque un giorno fisso, un'abitudine ai lettori, come se fosse una rubrica. In più oggi hai l'aiuto dei social, perché oggi aprire un blog senza l'ombrello di una testata, senza un nome riconosciuto, senza uno spazio pubblicitario, sarebbe tra 6 mesi trovarsi da soli a parlare con l'infinito. Grazie ai social tu ogni post lo rilanci su Twitter, su Facebook, dove preferisci, eccetera, e fai presto a farti un parco di utenti. In più tu hai un nome, ripeto, non sai, cioè aprire un blog oggi senza essere, avere già un lavoro nei media è piuttosto complicato. Certo, ecco, sicuramente. Invece nel tuo caso no. Sono diciamo agevolata. Che un post a settimana può essere un po' poco, però il taglio è molto chiaro, si parla di libri, non è un blog generalista. No, giovedì libri. Giovedì libri, direi che poi, è molto divertente giovedì libri. Giovedì gnocchi, giovedì libri, almeno prendo l'impegno ogni giovedì di consigliare un libro a chi avrà la pazienza, insomma, di seguirmi anche sul blog. Però il giovedì ci devi essere. E il giovedì ci devo essere, va bene, mi impegnerò da settembre in poi, come le diete. L'altro giorno guardavo un po' i trend, no? Quest'anno ci sono stati i mondiali di calcio, chiaramente gli hashtag sulle partite di calcio erano quelli che avevano sempre il massimo, il trend su Twitter. Per quanto riguarda invece l'editoria, una sola volta, diciamo, siamo entrati in tendenza, purtroppo per una brutta notizia, cioè per la morte di Giorgio Faletti, mentre per esempio per la scomparsa di Nadine Gordimer, che comunque è stata un premio Nobel per la letteratura, assolutamente, cioè ne abbiamo discusso forse solo noi addetti ai lavori, insomma. Quanto è frequente che qualche elemento, qualche notizia di carattere letterario, diciamo, del mondo della narrativa, così arrivi effettivamente fra i trend? Oppure siamo noi e noi che ce la raccontiamo in piccoli gruppi? Ma allora, il problema di raccontarsela in piccoli gruppi è un po' il problema di Twitter in Italia, perché ancora gli utenti registrati sono una piccola parte e molti di loro sono silenti. Quindi il trending topic è sì, lo guardi, è divertente, eccetera, però ti dà relativamente l'idea di quanto un tema sia dibattuto o meno. Per quanto riguarda i mondiali, addirittura hanno polverizzato il record del Super Bowl americano, quindi certo. Su Twitter, quindi puoi immaginare cosa sia successo. Ecco, lo Strega, per esempio, è sempre molto dibattuto su Twitter. La cosa estremamente divertente è che adesso ci sono tantissimi editor delle case editrici che vanno a Villa Giulia, al Ninfeo, e twittano, perché ormai è abbastanza cosa certo. Comune, no? E anticipano spesso i risultati, perché la diretta TV ha un po' di ritardo. Sì, la diretta TV... Quindi, anche quest'anno è successa la stessa cosa. Io, seguendo Twitter, avevo il risultato un po' prima, perché che cosa succede? Si fa lo spoglio pubblico e ci sono delle persone di case editrici che mettono le le crocette sui singoli nomi e quindi fanno il conto, quindi a mano e quindi si sapeva che piccolo 140 e scurati 135, esatto. Quindi si è saputo prima su Twitter. E quindi è stato molto divertente, perché da una parte tu vedi in TV, io lo vedo sempre in TV perché mi interessa, sì, e vedi questa lavagna col gesto, no, che ha anche un certo fascino, dall'altra su Twitter improvvisamente hai i risultati, no? Quindi ecco, per esempio, ci sono grandi eventi come questo che riscuotono un grandissimo interesse su Twitter, e se non sbaglio forse anche lo streghe è entrato nei trending topic, adesso non ricordo bene, dovrei controllare, ma comunque la quantità di Twitter era, insomma, era o i primi letterari o purtroppo i grandi scrittori molto popolari che muoiono sono, sì, gli unici che riescono ad entrare nei topic, anche quando muoiono per finta, perché invece ne sono stati certi che su Twitter la cui morte è stata annunciata 3 o 4 volte. Vabbè, quello succedeva anche fake in televisione, esatto. e poi su Twitter, figuriamoci. Grazie allora a Barbara Sgarzi. Ricordo che tra l'altro tu sei autrice di un ebook molto interessante che si intitola Social Media ed Editoria. Sì. 21 voci autorevoli raccontano strategie, opinioni e strumenti. Sono proprio interviste per capire come funziona il mondo dei social media inserito nell'editoria. E ricordiamo anche che è un libro i cui proventi vanno in beneficenza. Sì, esattamente, per la Onlus SOS Bambini. E allora, Barbara Sgarzi, noi ci daremo appuntamento, io diciamo quasi 1900 followers ora, diciamo che ci diamo appuntamento fra settembre e dicembre, ce la possiamo fare? Direi che ce la possiamo fare. Per vedere innanzitutto se riesce a nascere questo blog Giovedì Libri, almeno l'ho detto in radio così nessuno mi copia il titolo, e poi insomma vedremo cosa saremo riusciti a fare. Vediamo se hai migliorato la media dei 90-100 al mese, magari succede. Ce la farò. Ed è tutto anche per questa puntata del Cacciatore di Libri. In regia c'è Pietro Lacorte, ovviamente seguite l'account Ale Teddina. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.